Ci sono nella vita. Ci sono cose nella vita. Certe volte nella vita. Ci sono delle cose nella vita che non vorresti. Delle cose nella vita. Ci sono delle cose che non vedi. Non vuoi vedere nella vita. Cose tante. Non le cerchi. Arrivano. Certe cose non vorresti. Arrivano nella vita. Non vorresti che ci fossero. Ci sono certe cose che non vuoi vedere, sentire. Non vorresti fare, dire, capire, toccare. Certe cose tante nella vita. Troppe. Spesso. Troppo spesso. Ci sono certe cose nella vita. Ci sono tante cose nella vita. Ci sono nella vita tante cose nella vita. Cose più grandi, incomprensibili, importanti. Ci sono certe cose nella vita che non avresti mai voluto fare, dire, capire, vedere. Stiamo nell'ombra a guardare passare la vita. Stiamo alla luce del sole e lasciamo che gli altri ci guardino andare. Certe dei nostri traguardi incompleti, pronte a spostare la linea d'arrivo più in là, per non giungere mai a conclusione. È l'idea della fine che ci devasta. La nostra natura è assai contorta. Non mente chi dice che siamo labirinti intricati dai quali spesso neppure noi riusciamo a fuggire, dentro i quali anche noi ci perdiamo. Il filo di Arianna si spezza, il più delle volte. Come si fa a condensare in poche espressioni l'immensità di quello che nasconde il nostro cuore, gonfio di tutte le cose del mondo? Le parole restano sempre tali, lanciate nell'infinito velo squarciato della verità. È impossibile tacere, impensabile esprimere tutto. Siamo figlie, madri, sorelle, compagne, schiave, baldracche, ancelle. Siamo intrise di luce divina, siamo buio nell'abisso più nero, il sostegno all'uomo confuso, il rifugio del figlio smarrito, gaia dolcezza del volto di madre, tetra ferocia del cuore tradito, il pugnale che spezza la vita, la vendetta che giace sopita. Morbide figlie di madri d'acciaio, sordide mogli di uomini puri. Siamo orecchio che origlia celato, siamo lombi induriti su talami offesi, siamo attesa, gioia, ricordo, distanza, abbraccio, segno e confronto, il perdono, l'astuzia, la fede, il rancore, l'amore, le pene, docile grembo che accoglie la vita, folgore intrisa di laido languore, la roccia battuta dal vento, la sabbia lambita dal mare. Tenere spose di nozze obbligate, fiere sorelle di esperti guerrieri. Siamo tutto per gente da poco, poca cosa a chi il gioco conduce. Siamo offese, punite, recluse, maledette, osannate ed escluse. Le fanciulle con lievi ghirlande, le matrone dal corpo ormai greve. Muta tristezza che cerca conforto, pianto inasprito che giura rivalsa. Siamo quelle che accettano e tacciono, e coloro che esprimono e oltraggiano. Tiepide amanti dal cuore impietrito, umili serve votate agli dèi, presta orecchio, fortuito uditore, leva il capo e abbandona il giudizio, apri il cuore e la mente corrotti, grida forte se senti l'offesa, spiega le vele all'ingegno sopito, domanda luce al nume celeste. Sull'ara votiva, insieme, deponiamo il frutto dei nostri propizi sacrifici, rinunciamo al nome, alla stirpe, agli onori. Vestiamo panni di donne ormai mute. Siamo le donne da cui tornare. L'antidoto per dimenticare. Le donne che lanciano accuse al mondo corrotto. Le donne che sfidano il passare del tempo. Le donne che credono all'ingegno delle donne. Όμορφη που σ' αγάπη μου, τι όμορφη που είσαι. Ανατρα. Φίλια di Icaro, che troppo vicino al sole volò, cugina di Elena, che tante sventure causò. Ανατρα, moglie di Ulisse, che dopo 20 anni tornò. Anatra, preda dei proci, ai quali l'imbroglio bastò. Anatra, filo e disfo il sudario del pro della Erte che con gli argonauti salpò. Cos'altro la sorte può riservarmi, non so. Anatra. Anatra. Il mio nome è Anatra. Eh già, perché nella vita c'è sempre un'alternativa, anche nei significati. Gran parte della tradizione è stata generosa con me. Il mio nome avrebbe attinenza col nobile mestiere delle tessitrici, il che, data la mia storia, è banale, lo so, ma certamente più elegante rispetto all'altra opzione. Chi non conosce le vicende della virtuosa Penelope che tesse e disfa la tela in attesa del ritorno di Ulisse? Alcuni, molto pochi a dire il vero, sostengono invece che il mio nome derivi da Penelops, una specie di anatra, per l'appunto. Forse anche a causa della leggenda intorno alla mia nascita. Un gruppo di anatre mi portò in salvo dopo che mio padre m'aveva abbandonata tra le acque di un fiume. L'etimologia? Beh, so che l'ipotesi stride con le più comuni regole sulla composizione dei nomi, ma che volete? Mi sento più legata alla natura che a questo maledetto telaio. Fila, disfa, fila, disfa, fila, disfa, e così consumo le mie ore, i miei giorni e le mie dita, sciupo gli occhi e m'affatico. E di Ulisse? Neanche l'ombra. Ecco Penelope, figlia di Icaro, cugina di Elena, sposa di Ulisse, casta nel cuore, sorda ai richiami. Ecco Penelope, figlia di Icaro, cugina di Elena, sposa di Ulisse, casta nel cuore, sorda ai richiami. Casta nel cuore, indubitabilmente. Quanto alla sordità dei richiami, sono molte le leggende che mi riguardano, una sola, quella narrata alla gran parte dei posteri. Forse perché si tratta di una versione tranquillizzante, portatrice di valori positivi. Ecco cosa sono per il mondo: una figura monolitica, una trepida casalinga che ha atteso per 20 anni il ritorno del marito sedendo al focolare, tessendo la stessa tela per 4 primavere, sola e rassegnata, senza pulsioni, senza cedimenti. Sono la bellezza, la regalità, il pudore, la fedeltà e l'astuzia. Tante qualità in una sola donna ispirano rispetto e devozione, non c'è che dire. Una bella immagine, davvero. La perfezione di una splendida statua di marmo. Il tempo ha consumato le mie ore. Parla, Penelope. Dici chi sei. La notte è stata amica e sorella quando disfacevo la tela. E di trame imbastivi i tuoi giorni futuri. Per restituire un padre a Telemaco, un figlio a Laerte e un uomo a me, che in tanta attesa dubitavo perfino d'essere mai stata donna. Debole la carne, forte il cuore. Affemio, che per lunghi anni aveva servito Ulisse e che fu costretto a cantare per i proci il ritorno degli Achei dalla guerra di Troia, chiesi di intonare altri canti, tanto era grande il dolore inflitto al mio povero cuore di moglie in attesa. Dolore vero, reale, sincero, patito così a lungo. Quante volte ricacciai indietro le lusinghe e le pretese di coloro che vedevano in me innominata bellezza e femminilità. Seconda solo ad Elena. Prima, senz'altro, per virtù. E soffrendo, aspettai nell'isola, dove quasi tutti i sudditi avevano dimenticato il loro re. Debole la carne, forte il cuore. Debole la carne, debole il cuore. Quando il nobile e forte Anfinomo, che primeggiava tra i pretendenti e molto mi incantava coi suoi discorsi, fece cadere ad uno i fili che tra le mie mani ormai sembravano aver perso ogni capacità di intrecciarsi agli altri, a formare e costruire l'ordito che avevo imbastito per tenere a bada i proci, allora, dico solo allora, non fui più certa di me. Ma lui fu più degli altri. E senza lusinghe, senza attendere che io m'abbattessi, sconfitta per troppo patire, mi vinse. Col suo viso, le sue mani, il suo modo di incedere e dire, non potevo combattere contro me stessa. 108 uomini avevano ambito alla mia mano. 107 volte dissi di no. Chiudi la porta, regina. che non entrino le ancelle, che esiti persino la luce dell'alba, quando sarà il tempo che bussi. Il giorno verrà troppo tardi e troverà la tua pelle che ancora brucia della mia. Quell'amore che dici ci separa è morto, divorato da flutti e mostri marini che forse non hanno neppure un nome. O dorme in altri letti e ha nuove spose. E tu lo sai. Questa notte lo sai anche tu. Smetti la tela che cresce e cala come giro di luna o tempo di marea. Sì, questa notte lo sai anche tu. E ti alzi e mi vieni incontro. Le labbra promesse al figlio di Sisifo si aprono sulle mie. La veste che celava il tuo mistero è ora una nuvola colorata attorno alle tue caviglie. Domani forse non saprò tendere l'arco del re, ma questa notte insegnerò fiabe d'amore a un letto d'ulivo che da troppi anni le ha scordate. 108 uomini mi insidiarono. 107 volte dissi di no. Anfinomo, il più nobile tra i proci. Anfinomo, che sapeva quali angosce avevi in seno. Nei doppi e nei tripli giochi, per tenere tutti al laccio. Tra false promesse, messaggi, sguardi. La condizione di donna sola non era neppure pensabile allora. E desideravo avere ancora un uomo accanto. Pure il figlio, Telemaco, dubitava. L'animo nel suo petto è indeciso, egli disse. Ella non sa se qui con me rimarrà a curare la casa, avendo riguardo al letto nuziale e alla voce del popolo. O se ormai seguirà chi tra gli Achei è più nobile e la corteggia in palazzo, offrendo doni infiniti. Agamennone, dall'Ade, che ben dalle donne avrebbe dovuto guardarsi, da esse mise in guardia il re di Itaca. Anche tu con la donna non esser mai dolce, non confidarle ogni parola che sai. Ma di una cosa e lascia un'altra nascosta. Tutti in fila, uno dopo l'altro, tutti esperti di cose di donna, tutti capaci a dire di me. Chiunque pensava di conoscere le trepidazioni del mio cuore, le motivazioni del mio agire, il mio sentire. Tutti pronti a colpire, sentenziare, mettere in guardia. Io sola posso sapere. Nessun altro può arrogarsi il diritto di patire le mie sofferenze, di piangere le mie lacrime, di curare le ferite sulle mani offese da tanta lena nel muovere il telaio giorno dopo giorno, notte dopo notte, senza protezione, senza il governo di un uomo, senza l'abbraccio che rende forti. Seriamente meditavo di riprendere marito. Perché biasimarmi? Solo chi avesse teso l'arco di Ulisse e scagliato la freccia potente attraversando gli anelli di 12 scuri in sostegno alle chiglie, solo questi sarebbe stato degno di prendere il posto del re. Ulisse però era già ad Itaca e si celava sotto mentite spoglie. E l'ultima a saperlo, dopo Telemaco, Euriclea la nutrice e il porcaro Eumeo, fui io. Tutto è il contrario di tutto. Questo ed altro si disse di me. Accadde, proprio quando mi accingevo a rassegnarmi e a vincere le mie reticenze, che il re d'Itaca, uccisi tutti i miei spasimanti, tornò a me pretendendomi moglie. Figlia di Icaro, che troppo vicino al sole volò, cugina di Elena, che tante sventure causò, sposa di Ulisse, che dopo 20 anni tornò, preda dei proci ai quali l'imbroglio bastò. Tessevo il sudario del prode Laerte, che con gli argonauti salpò. Cos'altro la sorte poté riservarmi? Ora so. Ecco Penelope, figlia di Icaro, cugina di Elena, sposa di Ulisse, forte nel cuore, salda al dovere, che anche la sorte sfidò. Allora, per la prima volta, Messalina intuì il suo destino. Afferrò una spada, cercando invano nell'emozione violenta di colpirsi la gola e il petto. Ma fu trafitta da un colpo del tribuno. Il corpo fu concesso alla madre, A Claudio, mentre banchettava, fu annunciato che Messalina era morta, senza precisare se di propria mano o altrui. Né lui si informò. Chiese una coppa e continuò il banchetto come di consueto. Neppure nei giorni seguenti diede segno di odio, di gioia, di ira, di tristezza. Insomma, di nessun sentimento umano. Non di fronte alla gioia degli accusatori, non davanti al dolore dei figli. Il Senato favorì la sua dimenticanza, decretando di rimuovere il nome e le effigi di lei da tutti i luoghi pubblici e privati. Damnatio memoriae. Cancellata, estirpata, rimossa, dimenticata. Meglio essere infamata dalle malelingue che omessa. Meglio essere pensata in un tipo striboli che non esserlo affatto. Per non essere dimenticate non basta la fama, buona o cattiva che sia. Se di una donna si dice bene, può essere una menzogna. Se se ne dice male, è certamente verità. La verità sta nel mezzo, così dicono. Ma la difficoltà è nel capire dove sia il mezzo. Un poeta misogino e uno storico avvelenato mi hanno inflitto colpi più violenti della spada. Capolavoro di depravazione. Di me hanno fatto scempio. Non si fa scempio solo di ciò che lo merita. La fortuna del nome non è necessariamente da ascriversi a una condotta morale retta. Indipendentemente da quale sia stata la mia condotta di vita, ecco cosa si diventa. Quello che scrivono storici asserviti, che cantano poeti effeminati, che raccontano nubili frustrate, che tramandano famiglie corrotte. Ma la corruzione del cuore è sempre cattiva consigliera. I cattivi consiglieri sono in agguato, spiano non visti, origliano dietro porte semichiuse, riferiscono a coloro che crediamo amici. Piccolo o grande che sia il potere da preservare, è sempre smisurato il delirio che nasce anche solo dall'idea di una possibile sconfitta. Per cui si imbroglia, si mente, si gioca con la vita altrui, si macchinano congiure e assassini. Le guerre più cruente sono combattute nel chiuso dei palazzi. E i conflitti che ne derivano sono disastrosi. Ma qual è il prezzo della libertà? Come si può vivere in pace? Forse si può respirare solo come donna qualunque, tra gente qualunque. A una regina non è dato saperlo. Una mattina, al sole caldo, svegliarsi in un abbraccio che lenisce, cura e appaga ogni senso di sconcerto. Un pomeriggio, in un giorno qualunque, essere la sposa di un uomo senza fama, che non ha stirpe da difendere, terreni da proteggere, regni da conquistare, corone da conservare. Una sera, lasciando fuori il freddo dell'inverno, scaldarsi al focolare e cullare al suono di una dolce ninna nanna i figli che non hanno un destino segnato. Una notte, l'ultima, chiudere gli occhi al mondo, godendo della quiete pace e del meritato sonno che una vita al di sopra degli altri non ci ha concesso. Vi mostro quello che sono per la storia. Questa immagine ha soverchiato le altre. Appartenevo a una famiglia troppo importante per poter essere lasciata in pace. Per capriccio dell'imperatore Caligola, sposa bambina di un uomo anziano, zoppo, balbuziente e già al terzo matrimonio. Chi mai avrebbe potuto credere che Claudio fosse fatto re? E tu, regina, con due figli da curare. Intravidi nell'attore Mnestere la possibilità di amare, ma egli agiva solo per cieca obbedienza all'astuto Caligola, al folle benestare del re, e così me ne disfeci. La vita di corte non è per tutte. Messalina bellissima, piena di grazia femminea, dal sorriso ingannatore. Solo quando ho trovato il vero amore, l'amore ha chiesto un prezzo troppo alto. Sposata a Silio con libagione votiva mentre eri moglie di un imperatore. Sono l'onta, la depravazione, lo scandalo. Condannata a morire per il miserabile operato d'un servo traditore e per la cieca noncuranza di un marito distratto. Claudius audit quetulerit. Ascolta le disavventure di Claudio. Dormire virum consenserat uxor. La moglie, non appena lo vedeva addormentato, sumere nocturnos meretrix augusta cucullus ausa, spingendo la sua audacia di augusta meretrice. Palatino et tegetem preferre cubili, sino a preferire una stuoia al talamo del palatino. L'inquebat comite ancilla non amplius una, incappucciata l'abbandonava scortata da una sola ancella. Sed nigrum flavo crinem abscondente galero, nascondendo la chioma scura sotto una parrucca bionda. Intravit calidum veteri centone lupanar, varcava la soglia di un lupanare tenuto caldo da un tendone malandato. Et cellam vacuam atque suam, dove in una cella a lei riservata, tunc nuda papillis prostiti tauratis titulum mentita licisce, col falso nome di Licisca si prostituiva ignuda i capezzoli dorati. Ostenditque tuum generose britannice ventrem, offrendo il ventre che generoso britannico un tempo t'aveva portato. Sventurata Messalina, erede di antica stirpe su cui s'abbatté la perfidia dei delatori, coi suoi atroci anatemi. Come potevi vincere contro un nemico sempre celato, contro le ambigue trame, in un tempo e in uno spazio diventati già macerie di se stessi? Il finto calore di un attore asservito, il gelido soffio di un matrimonio imposto, l'autentico amore di un uomo impossibile. È nel mezzo eccessi, ricatti, omissioni, colpe, sempre guardando con occhio vigile dietro le spalle, che il nemico è incessantemente pronto a colpire. Oh Messalina, la spada ti trafisse alla luce del giorno, mentre il tuo carnefice guardava spegnersi lentamente la luce dentro ai tuoi occhi belli. Ingenua, molle, sprovveduta, bambina. Lo stesso che mi strappò l'ultimo soffio vitale mi coinvolse col ricatto in loschi affari di denaro illecito. Eri ricca, niente ti mancava, ma ti teneva in pugno perché tutto sapeva di te. Non mi interessavano simili giochi. Ma tu, infelice, non hai potuto dire di no. No, non ho potuto dire di no. Non ho potuto dire di no. Avrei voluto, ma non ho potuto. Dove siete? Ripetete ancora al mondo quello che avete appena affermato. Sola, fragile, senza amore, in che altro modo avrei potuto agire? Perché non rispondete? Non sento più le vostre voci. Dove siete andate? Difendetemi ancora. Qualcuno mi ascolti? Perché non sento più? Perché non vedo più? La tua vista è accecata dalla vergogna. Chi ha parlato? Padrona del cuore del padrone del mondo, questo credevi. E così ti sei posta al di sopra di ogni cosa. Non per mio volere. Infida serpe, hai eliminato coloro che ti intralciavano. Nessun essere umano può disporre della vita altrui. Erano politica e strategia, non volontà. Quando le menzogne cominciano a ricoprire il capo e poi la mente, le mani e l'onore, rendiamo attendibili i nostri inganni perfino a noi stesse. È questa la verità. Quale? Sentiamo. Quella che ti fa impudica meretrice o l'altra? Quella che ti dipinge come indomita assassina. Perché parli così? Per disvelare le tue colpe. No, non le mie. Quelle a cui sono stata costretta. Dalla lussuria. Quelle a cui mi hanno condotta. L'odio e la scelleratezza. Brucia, dannata e dimenticata. Devota Rosvita, l'intelligenza, la capacità e l'amore per l'arte ti hanno resa stella luminosa tra le tante voci misericordiose. Scrivendo hai inciso sulla roccia ciò che altrimenti sarebbe disperso nel nulla. In molti modi si possono proclamare le lodi dell'Altissimo e dei suoi umili servi. E molti mezzi espressivi possono essere utilizzati. Tu, coi tuoi drammi, sei stata artefice di un nuovo modello. Hai reso con forma meno lecita il teatro. Giustizia ai giusti, abisso ai demoni. Abram, Dulcisius, Calimacus, Paphnutius, Gallicanus, Sapientia. Godo nel profondo del cuore che in me si inlodi Dio, per la cui grazia soltanto sono ciò che sono. Addio, per sempre, mi concedo e mi affido. Non nego che ho appreso la conoscenza delle arti aiutata dalla grazia di Dio e confesso che con le mie sole forze non sarei nulla. Riconosco che la bontà divina mi ha dato uno spirito acuto, ma questo, se privo delle diligenti cure dei maestri, intorpidisce incolto e, trascurato, si abbandona alla pigrizia. Perciò, affinché il dono di Dio non fosse in me annullato per mia negligenza, composi le lodi dei martiri e dei santi e per bocca di chi è sopra di me lanciai anatemi agli spiriti dannati, pregando sempre che Dio concedesse a me e a quanti lo venerano la forza per fuggire alle tentazioni del maligno. Di cosa si è parlato finora? Adesso non un fiato? Di quali altre leggende dovremmo ancora essere testimoni? Mi pare una soluzione comoda. Cosa vi starete chiedendo? La pietrificazione. È una soluzione agevole ed esteticamente valida. Magari avessi avuto anch'io una vita così comoda, statica. Comporre versi di lode a Dio, pregare, comporre, pregare, comporre, pregare. Ho attraversato mari, monti, fiumi, laghi e non solo metaforicamente. Di me hanno detto in tanti, anche il sommo poeta. Questa è la luce della gran costanza che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. Ma prima afferma che fui dal vel del cor giammai disciolta. Di tutte, questa è stata decisamente la cosa più dolorosa per me. Nobile Rosvita, cosa ne puoi sapere del mondo e della vita? Sei rimasta incastonata in un convento mentre io ne venivo trascinata fuori, nonostante la mia vocazione, per adempiere a doveri più alti di me. Che vi avevo detto? Fuori dal tempo, fuori dal mondo, fuori! Portatela via! Qualche volta ci è richiesto più del necessario. La ribellione non è concepibile per nostra natura, o meglio per la natura che un mondo virile ci ha prescritto. Siamo fragili e irascibili quando ci è tolta la parola, ma energiche e decise quando ci è imposta l'azione. La nostra migliore qualità, frutto di rischiose destrezze perpetuate nel tempo, è di non apparire mai superiori ad un uomo. Questo è l'unico peccato che mai potrà essere condonato. Nessuno può sopportare che una donna gli sia superiore in quanto a ingegno. La molliebre mollezza, la solerte accondiscendenza ci hanno spesso consentito una via di salvezza. I giochi di equilibrio tra ciò che dovremmo essere agli occhi esterni e quello che siamo nel profondo del cuore ci hanno reso combattive, risolute, capaci di qualsiasi gesto. Non conta quello che la storia tramanda, conta ciò che siamo state per noi stesse, conta ciò che abbiamo fatto per proteggere e custodire quel che andava tutelato. La fiera normanna, dal grande potere, con maschia femminilità, preservò il trono del figlio diletto. Fanciulle, non vi scomodate. Come non c'è bisogno di fare il coro, non serve. Non mi occorre aiuto. Riesco a narrare di me medesima con dovizia di particolari, senza che altri vi mettano bocca. Come ho sempre fatto. Nessuno ha mai deciso mia vece. Nessuno ha preso mai per me la parola. Nobile Costanza, che farnetichi? Somma imperatrice, di che favelli? Limpide voci di donna a me vicine. Al tuo servizio, sovrana imperitura. Quando avrete terminato d'essere adulatrici al solo scopo di sopravvivere, allora potremo discorrere. Al momento non ho bisogno di voi. Guglielmo il Buono mi volle imperatrice di Sicilia quando era avanti con gli anni e già sposata al giovane discendente del Barbarossa. Inutile dire che le lotte ereditarie scatenate da tale decisione furono acerrime e spietate. La prigionia, la fuga, la separazione dall'amato sposo e la nascita del figlio inaspettato. Quando presi marito, già attempata, su di me circolarono storie disoneste. Il certo si mescolò all'incerto e ne nacquero parole non sempre veritiere. La creatura che cresceva in me fu detta prole di uomini diversi dal legittimo e di vile lignaggio. Qualcuno addirittura osò pensare che essa fosse figlia del demonio. Federico II, generato da madre smonacata, in dissacrante unione con l'antecristo. Sciagura inenarrabile. Quando l'imperatrice Costanza era grossa di Federico, s'avea sospetto in Sicilia e per tutto il reame di Puglia che per la sua grande etade potesse essere grossa. Per la qualcosa, quando venne a partorire, fece tendere un padiglione in sulla piazza e mandò bando che qual donna volesse v'andasse a vederla. E molte ve ne andarono e vidono, e però cessò il sospetto. Fanciulle mie, la misura non pare condurre le vostre menti, né prende possesso delle vostre bocche, che a dispetto dei moniti miei dispiegano espressioni a profusione. Allora venite, se proprio non potete fare a meno di ingerenza, ma siate un poco accorte e più mansuete. Parlate quando vi sarà accordato. E ora raccontiamo, che tanto sono donna io quanto voi, anche se d'altezze differenti. Per seguire la politica e l'impero dovetti affidare l'educazione del mio figlio adorato a mani altrui. Soltanto dopo la morte del re potei ricondurre Federico con me in Sicilia. Poco tempo passò, ahimè, che anch'io fu richiamata da colui al quale non ci si può negare. Ma prima riuscì nel mio intento, far incoronare il nuovo re col benestare del sommo pontefice di Roma. Muta Costanza, che ormai chiude gli occhi nella pace di Dio. Abile stratega e donna premurosa al tempo stesso. In te s'assommano forza e giudizio, scaltrezza e amor di madre, che al sangue del suo sangue donò il privilegio del comando, senza sottrarlo all'infanzia e alle carezze. E il futuro imperatore crebbe sereno, giocando tra le strade di Palermo, come un figlio del popolo. Occupazioni femminee, lavori donneschi, cucire, pregare, recarsi alla messa, sorridere compiaciute quando richiesto, mostrare sconcerto se domandato, reprimere qualsiasi iniziativa personale, annuire senza parlare. Queste le principali mansioni necessarie ad assicurare un'esistenza dignitosa e pura. Una donna di un certo livello sociale deve essere attenta ad ogni piccolo gesto. Guai se uno sguardo risultasse impudente, o un cenno della mano, o un movimento dei fianchi. Se siete sposate, poi, dimenticate di avere una vita. Non che nella casa paterna il discorso sia molto diverso. Semplicemente passiamo da un padrone ad un altro. L'obbedienza e l'osservanza, ecco gli ingredienti per respirare senza tormento. La ricetta è servita e noi ci adattiamo per il bene altrui, non certo per la nostra felicità. Stringiamo i denti, serchiamo il corpo, conteniamo lo spirito. Ma poi, nel luogo dove riposano i nostri muti pensieri profondi, ci rifugiamo quando non viste e nascondiamo al mondo il volto e il desiderio. Allora la vita ci appartiene, ma nessuno lo sa. Allora la mente è libera di muoversi ovunque, ma nessuno immagina. Allora ci concediamo digressioni soavi, ma nessuno sospetta. Perfino acute utopie, ma con cautela. Lasciare intuire che siano il prodotto dell'ingegno nostro. Guai! E come potrebbero, in definitiva? La gran parte del mondo ci crede incapaci di congetture elaborate e fantasiose. Intelligenti, poi. Attenzione a quello che dite in giro. Potrebbero pensare che siete preda del demonio, che avete l'animo stregato, che la follia vi tenga in pugno. Passi. Siamo abituate a difenderci in ogni modo. Noi che abbiamo il privilegio di essere nate fortunate e di aver vissuto in una grande corte al servizio di un grande re. E se il più delle volte ho dovuto tacere, non mi sono mai tirata indietro quando si è trattato di dare forma alle mie idee. La scrittura mi ha resa eterna. La carta e l'inchiostro conservano intatte le parole che la mia mente, del tutto estranea al mio corpo, è andata elaborando copiose. Quale natura può essere imbrigliata dentro confini che non le sono propri? Donna. Donna. Donna. Donna sorprendente. Donna lussuriosa. Donna perigliosa. Donna scandalosa. Donna insidiosa. Donna bistrattata. Donna vituperata. Donna additata. Donna sconsacrata. Donna martoriata. Ma che anche dotti, maestri e filosofi, uomini saggi e di grande scienza, dovessero uniformarsi e appiattirsi e adeguarsi e far coincidere le loro alle voci che in coro gridano che la donna è dubbio, malinconia e vizio. Beh, questo proprio non è accettabile. È davvero un'iniquità. Stupidità oltre ogni misura. A salvaguardia dell'incorruttibilità nostra. Ridicolaggini. Ahimè, mio Dio, perché non mi hai fatto nascere maschio? Tutte le mie capacità sarebbero state al tuo servizio. Non mi sbaglierei in nulla e sarei perfetta in tutto. Come gli uomini dicono di essere. Avete ragione. Sarebbe in verità la preghiera più saggia. Ma le leggi terrene differiscono da quelle del cuore. Non vi do torto. Io stessa dovetti rimboccarmi le maniche ed essere conduttrice di una nave rimasta senza timoniere, dopo che l'unico compagno della mia vita mi aveva lasciata sola. La forza del vostro intelletto. La vostra integrità. Il vostro innato senso dell'equilibrio. Vi portarono a guidare con fermezza e dolcezza d'animo ciò che il vostro consorte vi aveva affidato. Dunque più forte dovrebbe essere la voce di chi grida in nostro favore. Ma così non è. Perfino il grande Boccaccio, che voleva denigrare a tutti i costi la nostra indole, fu costretto ad ammettere talvolta che in alcune di noi albergano virtù e doti assai grandi. Lo dite voi stessa, in alcune di noi. È poca cosa, non possiamo esserne liete. Vi sono donne i cui vizi e le cui brutture le fanno assomigliare più a delle bestie feroci che ad esseri umani. Parimenti si può dire degli uomini. Perché tutta questa distanza negli scritti, nelle parole, nelle intenzioni? Riflettendo a lungo sul problema, mi sono persuasa che solo l'azione congiunta può portare a risultati duraturi. L'esempio parlerà per noi. Il tempo ci renderà giustizia. Ecco il motivo per cui siamo venute qui. Per porre mano, in concreto, a progetti più alti. Di cui voi stessa ci avete reso edotte. Per cacciare dal mondo questo errore, affinché le dame e le donne di merito abbiano d'ora in avanti un luogo dove potersi rifugiare e difendere contro così tanti assalitori. È venuto il tempo che la loro giusta causa sia tolta dalle mani del faraone, e per questa ragione noi tre dame che vedete qui, mosse dalla pietà, siamo venute da voi per annunciarvi la realizzazione di un edificio particolare, costruito come una cittadella fortificata con buone fondamenta, che voi siete scelta e predestinata ad erigere con il nostro consiglio e aiuto, nella quale abiteranno tutte le dame nobili e le donne degne di lode. Troppo spesso si confonde il nostro desiderio di emergere dal torpore in cui ci hanno esiliate con la volontà di vendetta. Non vogliamo contrapporci all'uomo, vorremmo solo essere accolte, considerate, ascoltate, vedere riconosciuto il nostro ruolo, che non è secondario, ma complementare a quello dei nostri fratelli, padri, consorti, amici, sovrani. Sfortunatamente, quel che ha radici profonde nella società e nel modo di pensare non può essere rovesciato in maniera indolore. Utopia, lo so, ma io resto ancora una sognatrice. Ho sposato un uomo che amavo e che mi ha resa madre. Mio padre ha prestato servizio alla corte di Carlo V. Ho vissuto del mio lavoro di scrittrice, faticando duramente. Nonostante le avversità, posso dirmi felice. La beffa sta nel fatto che si tratta di un'eccezione. Non si ottiene molto spargendo lacrime su se stessi, né tenendo chiuse le porte al confronto, alle disquisizioni, al biasimo e allo scherno, se necessario. La costruzione di una solida città richiede fondamenta d'acciaio e un'apertura serena alle proposte altrui. E la consapevolezza di remare controcorrente, a lungo. Diciamo basta a una cultura prettamente maschile. Diciamo basta alle divine concessioni inutilizzate. Diciamo basta alle imposizioni. Diciamo basta al forzato voto di castità. Alla clausura senza vocazione. alla bellezza sciupata in matrimoni imposti, alle capacità soffocate, alle doti politiche inutilizzate, al piacere negato, ai figli strappati, agli amori ricusati, alle calunnie snaturate. La nostra città sarà spazio di autonomia e libertà per le donne virtuose, ma ammetterà anche quelle con cui il fato o la storia sono stati ingiustamente aridi. Per amor di giustizia, di intelletto, di irreprensibilità. Ascolteremo chiunque, fra le dame, voglio offrire la propria lungimiranza per edificare questa città, che diverrà eterna, perché è eternata da capacità, volontà, desiderio, fermezza. Vaglieremo ogni proposta ed ogni proponente, senza pregiudizio, per costruire strade, negozi, luoghi pubblici e privati, per dare spazio all'arte e alla letteratura. Chiunque voglia insegnare deve prima imparare ad ascoltare, soprattutto la voce del tempo, l'odore che hanno le cose quando sono vissute. Ogni oggetto contiene una storia, ogni gesto un significato, ogni parola un'attesa. Svincolarsi dai luoghi comuni non ci autorizza ad evitare il passato e a non guardare il futuro. Siamo il prodotto di ciò che è stato, non possiamo negarlo, nel bene e nel male. Chiudere gli occhi è un atteggiamento ottuso. Fingere che le cose vadano sempre nella giusta direzione è una presa in giro, un'offesa all'intelligenza. Accolgo le istanze di tutte le donne che sono venute prima di me. Apro le porte della città anche a coloro che, sbagliando, hanno permesso che altre non commettessero gli stessi errori. Apro le porte della città alle donne che, con il sacrificio estremo, hanno spianato la strada all'avvenire. Apro le porte della città alle donne che prima di me hanno parlato, in questo spazio senza tempo, in questa dimensione altra, la sola, dove è possibile l'incontro, nonostante la distanza. Apro le porte della città alle generazioni che il domani vorrà coltivare, perché non spengano le coscienze, non tacciano di fronte alle ingiustizie, non dimentichino di guardare alle loro spalle, prima di aprirsi alla vita che sboccia. La sensibilità delle donne può armonizzare qualsiasi asprezza, può conciliare posizioni opposte, può ricucire strappi profondi. Non nella solitudine, né nella fretta di cambiare il corso degli eventi, ma nel coraggio di accettare una sconfitta, nell'attesa di tagliare un traguardo che stenterà ad arrivare e che forse sarà solo l'immagine opaca e sbiadita di ciò che realmente si voleva ottenere. Nessuno può affrettare il dipanarsi degli eventi. Qualche volta anche noi dobbiamo tacere, ed è bene ricordarselo. Ci sono nella vita. Ci sono cose nella vita. Certe volte nella vita. Ci sono delle cose nella vita che non vorresti. Delle cose nella vita. Ci sono delle cose che non vedi. Non vuoi vedere nella vita. Cose tante. Non le cerchi. Arrivano. Certe cose non vorresti. Arrivano nella vita. Non vorresti che ci fossero. Ci sono certe cose che non vuoi vedere, sentire. Non vorresti fare, dire, capire, toccare. Certe cose tante nella vita. Troppe. Spesso. Troppo spesso. Ci sono certe cose nella vita. Ci sono tante cose nella vita. Ci sono nella vita tante cose nella vita. Cose più grandi, incomprensibili, importanti. Ci sono certe cose nella vita che non avresti mai voluto fare, dire, capire, vedere,